La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16.31 primi e 16 secondi in questo giovedì 6 di ottobre, perdonate, sono in diretta dagli studi di Milano e grazie per l'ascolto come sempre in diretta o in podcast. L'indirizzo per proporre temi di trasmissioni, critiche, obiezioni, segnalare proteste o semplicemente indirizzare quesiti, la versione di Oscar che ho cercato radio24.it. Lo sapete. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di una serie di proposte che sono avanzate sul tema, il tema è quello dell'immigrazione, quindi se avete opinioni comunque da dare 800 24 00 24, 349 238 6666, su quello che sta capitando in Italia. Sapete che stiamo gestendo, diciamo, le ultime punte di picco dei flussi che alla fine di questa lunga estate, nel mese di settembre, arrivano tramite il Mediterraneo in Italia, e questo ovviamente tiene sempre alta la polemica nel nostro paese. È un tema molto divisivo, è un tema sul quale 2 settimane fa era sembrato che improvvisamente il governo fosse pronto a un cambio di modello. Io sono molto critico sul fatto che da sempre, diciamo, abbiamo fatto evolvere il sistema dell'emergenza sui salvataggi in Europa. Sapete che adesso c'è un dispositivo europeo, però poi in definitiva l'Italia non si è mai dato un sistema organico, tant'è vero che ancora oggi i flussi poi vengono decisi dal governo tramite i prefetti e i sindaci si trovano poi a doverli a trovarseli, per così dire, indirizzati, senza che questo eviti o eccessi di concentrazione che in alcune parti del paese provocano poi le reazioni che conosciamo, tantissime polemiche e a volte anche reazioni di assoluta contrarietà, perché i sindaci poi alla fine, qualunque sia il loro colore politico, come sapete, dicono: ragazzi, o ci coinvolgete prima oppure tramite i prefetti non ce la facciamo. Cioè non c'è un modello, e non c'è poi un modello di integrazione, non c'è un modello di scommessa sul capitale umano, non ce li scegliamo per capitale umano come fanno tanti altri paesi avanzati, li in buona sostanza li scegliamo sulla base del fatto che riescano a pagare i mercanti di carne umana, purtroppo, e a sbarcare in Italia. Allora, lo spunto però, al di là di questo, ci viene dato da un rapporto che è stato presentato stamane, ed è un rapporto molto ponderoso perché sono 200 pagine in cui si fa un quadro di quello che sappiamo del fenomeno sia dal punto di vista europeo che in Italia. Infatti il titolo di questo report è Governance delle politiche migratorie tra lavoro e inclusione, e si sforza partendo dai dati del fenomeno, di avanzare una serie di proposte sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sia a livello locale, per tentare di dare una risposta ai tantissimi interrogativi che dagli amministratori, ai cittadini e poi nell'attività di comunicazione politica dei partiti eccetera eccetera continuano da una parte a infiammare il dibattito nel nostro paese, perché ripeto è molto divisivo tra chi dice chiudiamo le porte, già troppi, pensiamo agli italiani, e soprattutto però che ci impediscono poi di fare passi avanti dal punto di vista della gestione concreta del fenomeno. Allora questo report è stato presentato stamattina in una conferenza stampa alle 11 a Santa Maria Quiro al Senato, e l'hanno presentato Emma Bonino, già ministro degli esteri, Luigi Manconi, il presidente della Commissione dei diritti umani del Senato, Domenica Manzione, la presidente del sottosegretario agli interni, Roberto Ciccio Messere, che è stato parlamentare, segretario del Partito Radicale, e insieme a loro l'ha presentato Riccardo Maggi, che è ai nostri microfoni. Ringrazio di aver accolto il mio invito per fare una riflessione pacata su le tante proposte e i presupposti a cui arrivano a queste proposte i radicali. Riccardo Maggi, per chi non lo sapesse, è appunto il segretario dei radicali italiani. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Riccardo. Grazie a te, Oscar. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, posso chiederti di approfittare del tempo che abbiamo per iniziare a esaminare le diverse proposte che voi fate, però partendo dal livello più basso, cioè dal livello locale, poi a livello nazionale e poi a livello comunitario, per capire che cosa a vostro giudizio si può fare per uscire da questo singolare modello che spacca l'Italia, ma poi in realtà un modello verticale e orizzontale di cooperazione con le autonomie eccetera non è stato in grado di darselo. Cominciamo, certo, dal livello locale. Che cosa proponete? Sì, intanto una piccolissima premessa, perché tu hai colto un punto che ha reso inadeguata sinora le politiche, diciamo il modello di governance che il nostro paese ha messo in campo. ed è il punto approccio emergenziale o approccio che si prova ad avere governando, tentando di governare un fenomeno epocale e che si muove su scala globale, quindi un fenomeno molto complesso che non è una calamità naturale, che quindi non può essere affrontato con misure emergenziali, con strumenti emergenziali. E dai dati che noi abbiamo presentato, tra l'altro noi abbiamo l'ambizione di influire, di influenzare il dibattito pubblico e di creare un racconto nuovo. Diciamo subito pochissime cose telegrafiche. Noi non stiamo vivendo un'invasione, questo ci dicono i numeri. Noi ci stiamo attestando su flussi che diventano costanti e che sono intorno ai 150-200.000 arrivi l'anno, quindi non siamo ai 520.000 ingressi del 2007, siamo scesi e ci si sta attestando su questi livelli. Questo è importante dirlo e leggerlo insieme ad altri dati, sono le dinamiche demografiche del nostro paese, quindi un paese che vede una diminuzione della popolazione attiva, un invecchiamento della popolazione attiva, un tasso di fertilità che va sempre di più giù e un saldo, diciamo, migratorio che vede molti italiani andare all'estero. Noi abbiamo una necessità da un punto di vista di queste dinamiche demografiche e delle dinamiche del mercato del lavoro di circa 150-200.000 lavoratori, esattamente coincide con quei numeri, per tenere questi equilibri. Questi sono dati, Solo aggiungo solo una cosa, cioè domani su tutti i giornali troveranno i lettori che ancora, insomma, i benemeriti che comprano ancora i giornali o che comunque li guardano, ma è comunque già su tutti i siti di informazione italiane, il dato relativo a numero di italiani che sono espatriati nel 2015, perché sono i 100.000, di cui un terzo giovani, e quindi insomma questi fenomeni vanno visti nei flussi di entrata, nei flussi di uscita nel nostro paese. Quindi fare questa premessa ci aiuta, diciamo, ad uscire da quella dialettica che è purtroppo è quella che vediamo sempre più spesso nei talk show, che vede da una parte il buonismo dell'accoglienza incondizionata e comunque sia senza chiedersi quali siano le politiche migliori e dall'altra le scemenze anche illegali dei respingimenti che ci hanno visto in anni passati condannati pesantemente a livello internazionale. Quindi ci dobbiamo chiedere come si adottano delle politiche che ci aiutino a cogliere questa occasione, a vincere questa sfida, anziché avvitarci su convenienze di consenso elettorale e quindi enfatizzando gli aspetti che nessuno vuole negare di difficoltà che ci sono quando noi vediamo dei flussi migratori così grandi. Sai perché io preferisco parlare delle proposte? Perché per esperienza questa premessa cumula due difetti. Primo, tutti quelli che sono convinti che abbiamo tenuto troppo bassa la guardia e quindi consentiamo a troppi clandestini nel nostro paese, che hanno dei punti di ragione, perché noi per troppi anni abbiamo tentato di non identificarli tutti sperando che se ne andassero altrove, perché ancora oggi il 40% di coloro che arrivano non hanno diritto all'asilo, in teoria gli diamo un foglio di via e poi restano in Italia e noi speriamo che se ne vadano. Però a quel punto dicono: ah vabbè, ma allora se parti con questa premessa non ti do retta. E contemporaneamente anche quelli che invece credono nella solidarietà senza governo dei numeri, ti perdi anche loro. Però questa è la mia esperienza, per così dire. Tra l'altro questa tua precisazione mi consente di dire che in realtà i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che sono ancora di più i cosiddetti diniegati, cioè quelli a cui viene respinta la richiesta, sono sul 58-60%. Allora, quindi, perché noi sempre meno siamo un paese di transito dopo l'adozione dell'agenda europea e quindi di fatto la chiusura delle frontiere e la necessità di identificazione negli hotspot, l'identificazione immediata, e quindi dobbiamo attrezzarci proprio sul fronte dell'inclusione e dell'integrazione. Come si fa questa inclusione e integrazione? Allora, partiamo con le proposte a livello locale. Allora, a livello locale noi oggi abbiamo un sistema di accoglienza che vede diversi centri, semplifichiamo, centri di accoglienza. Una tipologia è quello dei centri di accoglienza governativi, quindi quelli decisi dalle prefetture, i centri di accoglienza straordinari o i CARA, i centri di accoglienza richiedenti asilo. Questi centri di accoglienza di solito vengono subiti, diciamo, dalle amministrazioni locali, perché è la prefettura che decide dove collocarli, sono centri di accoglienza di grandi dimensioni, quindi che non consentano poi che ci siano delle attività di inclusione, pensiamo all'insegnamento della lingua, pensiamo alla, diciamo, a stabilire quel contatto che può aiutare i mediatori a far trovare un lavoro a queste persone. Diventano dei grandi centri che rischiano di essere un ghetto, di creare disagio a chi ci sta e a chi ci vive intorno. L'altro modello che sta crescendo sempre di più ed è il migliore è quello dello SPRAR, il servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati, a cui i comuni aderiscono. Oggi purtroppo hanno aderito un 10% dei comuni in Italia, ci diceva stamattina il sottosegretario Manzione. Questi sono quelli che hanno dei risultati migliori. Si tratta di un'accoglienza su numeri piccoli, un'accoglienza diffusa, un'accoglienza che si integra di più con il territorio. A volte avviene in appartamenti di medie e grandi dimensioni per pochissime unità. Evidentemente qual è il problema? Che sull'altro centro oppure sui grandi centri si possono fare dei guadagni maggiori. Qui non entriamo sulle malversazioni, però ci sono mafie capitali, e naturalmente questo ha potentemente convinto tanti altri che avevano dubbi, ma erano lì per convincersene che è un affare. Però noi abbiamo degli esempi virtuosi, penso ad esempio alla città di Parma, penso ad altri comuni, dove il modello SPRAR ha funzionato e ha creato delle sinergie virtuose con il tessuto economico e produttivo proprio di quelle realtà. Quindi incentivare il modello SPRAR come meccanismo di incentivo è già quello che credo avverrà a breve per provvedimenti del governo. Il comune che aderisce al modello SPRAR non vedrà sul proprio territorio collocato il centro dell'altra tipologia, quindi quello di grandi dimensioni con tutto l'impatto negativo che può avere. Il nodo però centrale è le politiche attive del lavoro. Le politiche attive del lavoro che purtroppo nel nostro paese sono una nota dolente, e che fanno sì che e che vedono un po' l'assenza del Ministero del Lavoro su questo fronte dell'immigrazione. Questa materia è sempre stata trattata come una materia quasi esclusivamente di competenza del Ministero dell'Interno. E ti dirò anche, Riccardo, che da questo punto di vista io capisco anche, noi le politiche del lavoro non le abbiamo attuate, quelle del Jobs Act. Attualmente l'evoluzione dell'Agenzia Nazionale del Lavoro è rimasta sulla carta. Si pensa al massimo di fare la somma dei vecchi uffici provinciali del lavoro che servono a dare un lavoro essenzialmente a chi ci lavora ed è dipendente. Quindi capisci che per i giovani italiani che sono stati un po' presi per i fondelli con Garanzia Giovane e fior dei miliardi dell'Europa, dire sì, ma le politiche attive del lavoro non ci sono per noi, le facciamo per gli immigrati. Ma bisogna farli. Allora, noi abbiamo in Italia operatori che stanno nei centri per l'impiego, gli operatori sono 9.000, esattamente quelli della Danimarca. In Germania sono 110.000, nel Regno Unito sono 78.000 e così via. Questo fa sì che noi spendiamo molto poco per pagare questi operatori rispetto ad esempio a quanto spende la Gran Bretagna, ma spendiamo 4 volte quello che spende la Gran Bretagna per sussidi. Esatto. Cioè, abbiamo una politica completamente sballata e perversa. Ma vediamo gli altri aspetti che noi proponiamo. Gli altri aspetti sono quelli su livello nazionale. Noi dobbiamo modificare quella legge scellerata, ma scellerata non perché cattiva, ma perché non ha funzionato, che è la legge Bossi-Fini. La dinamica dei flussi diciamo così, e della chiamata è una dinamica che di fatto ha prodotto irregolarità. Questi cittadini sono irregolari, non è che non lavorano, ma lavorano in nero, quindi sono loro soggetti a sfruttamento e sono evidentemente attività e risorse che sfuggono poi al mercato invece legale. Quello che noi chiediamo è la possibilità per i lavoratori che lavorano in via irregolare di ottenere un permesso di soggiorno a fronte dell'emersione. Questa è una cosa che si può fare, si fa ad esempio nella legislazione spagnola con il meccanismo del radicamento, cioè questi lavoratori si considerano radicati perché appunto hanno un'attività lavorativa dimostrabile e a fronte di questa attività lavorativa possono essere messi in regola. Voi questa immersione in nero la ipotizzate anche per coloro che hanno fatto richiesta d'asilo e che se la sono vista negare? Ho capito bene? Sì. Assolutamente sì. Cioè è una dinamica per cui al meccanismo, come dire, dirigista dei flussi che li decide il Ministero, si sostituisce una dinamica di domande e di offerta nel mercato del lavoro. Voi lo sapete che questo tipo di proposta, lo ripeto per chi è a caso, nei flussi c'è una percentuale elevata di chi si vede disconosciuto dalle autorità italiane il diritto all'asilo, no? E questo è uno dei problemi fondamentali in termini numerici del governo dei flussi, perché ripeto, noi abbiamo sempre sperato che poi se ne andasse in altri paesi europei e questo naturalmente poi non avviene. Allora, detto questo, i radicali oggi propongono, e una delle loro proposte a livello nazionale, bene, in questo caso coloro che sono in questa condizione, diamogli comunque la possibilità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato invece che farli stare in nero, li facciamo emergere, ed è un meccanismo della domanda e dell'offerta. L'obiezione però, Riccardo, che può essere fatta, dice: bene, allora questo è un modo per attirarne il maggior numero. No, questo è un modo per rendersi conto in modo molto realistico che questi lavoratori ci sono, che questi lavoratori da qui non andranno via e che sono dei lavoratori irregolari e che lavorano in un mercato nero. Questa cosa non conviene a nessuno, cioè è una presa di atto. Non è che noi finora con la legge Bossi-Fini e con i flussi che sono stati di fatto a lungo, il decreto flussi non è stato fatto, sì, abbiamo bloccato l'immigrazione. Ah no, certo, questo, i numeri dicono proprio che non è così. Fondamentale. Ecco, quindi piuttosto meglio far emergere che fingere di opporsi e poi avere invece i flussi crescenti. Torniamo tra un minuto a Strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando di immigrazione, traendo spunto da questo rapporto di 200 pagine, fitte, in cui si fa un'analisi del problema e della sua evoluzione e dei dati più aggiornati, sia per quello che riguarda l'Italia, sia per quello che riguarda l'Europa, con proposte, oltre che analisi, dichiarando il punto di vista, insomma, quello dei radicali, ma anche con delle proposte nuove di governance a livello locale, a livello nazionale e a livello europeo. Ed è con noi Riccardo Maggi, che è appunto segretario dei radicali italiani, che ce ne sta, ha iniziato a illustrarci quelle dal basso e siamo arrivati a quelle nazionali. Mettiamo qualche telefonata di qualche ascoltatore, perché come immaginavo le telefonate sono tantissime. Cominciamo con Giacomo, che ci chiama da Catania. Giacomo, prego. Sì, salve, buonasera, grazie, salve, per avermi richiamato. Prego. Io volevo sottolineare un tema che viene trattato sempre marginalmente. Sì. Sui dati ufficiali della prefettura degli sbarchi a Catania, sì, il 90% è di sesso maschile, quindi solo meno del 10% è di sesso femminile, anche tra i minori, sono quasi tutti uomini. E all'interno di questo, cioè, le donne sono quasi tutte di paesi di origine cristiana, cioè, per fare un esempio, della Siria, dove arriva solo l'1%, solo una donna, una nel 2016 è scesa. Non pensate che, come quando io facevo il militare a Taranto 20 anni fa, 20.000 uomini in più rispetto a una città di 240.000 persone creano degli scompensi, ah, soprattutto, certo, se di religione musulmana. Come mai le donne non arrivano? C'è l'unico caso di immigrazione solo maschile. Chiarissima la domanda, Giacomo. Innumerevole volte, per quello che mi riguarda, il fenomeno che l'Italia non abbia un sistema efficace, purtroppo, si vede proprio dal fatto che noi abbiamo avuto le concentrazioni invece che le dispersioni. Le concentrazioni in alcune parti d'Italia e in alcune aree urbane sono quelle che rendono poi il fenomeno più difficilmente governabile, meno integrabile, più alte le reazioni, perché magari quelle aree sono esattamente quella più basso reddito degli italiani stessi. Questo è uno dei classici segnali attraverso cui si capisce che un paese non ha una politica efficace di gestione del fenomeno. Sentiamo Stefano da Brescia. Stefano, prego. Sì, buonasera Giannino, la ringrazio. La domanda è molto semplice. Il signore diceva che era più facile un rapporto di distribuzione più ampia anche nei piccoli comuni. Ma la mia domanda è: nel momento in cui un comune anche di piccole dimensioni ha 100 euro da spendere, per quale nel sociale, per quale motivo deve spendere per questi signori e non per magari per realtà di cittadini italiani che per 20-30 anni hanno pagato le famose tasse e attualmente si trovano in difficoltà? Ecco, per quale motivo? Segnalo anche a Riccardo Maggi tantissimi che dicono: con questo stesso governo ne abbiamo avuto interventi come gli 80 euro ma nessun intervento per la povertà assoluta, e quindi ci sono anche questi italiani a cui dare una risposta. L'ultima telefonata, Giancarlo da Bologna. Giancarlo, prego. Buonasera. Dica. Ascolto e allibisco il signor Riccardo, pretenderebbe di scambiare 100.000 italiani ben educati a livello universitario, spesso vogliosissimi di lavorare altrimenti non andrebbero all'estero, integrati nella società perché vengono di qui, costretti ad andarsene, con 200.000 che, senza voler essere troppo offensivo, nella grande maggioranza sono notevolmente ignoranti, molti, come diceva il signor Catania, maschi, giovani e forti, musulmani, non integrabili, alcuni anche che vogliono delinquere, e sconvolgiamo la nostra società per ragioni economiche, oltretutto pagando e finanziando coloro che li portano di qua, provocando anche migliaia di morti. Ma è folle, chiarissime. Chiarissime obiezioni, Giancarlo. Riccardo, lo sai, Riccardo Maggi, che queste sono le obiezioni che arrivano. Eccoci qua, prego, dai. Beh, no, ma parto dall'ultima domanda. Ovviamente non sono io che voglio scambiare questi che arrivano con quelli che se ne vanno, non mi sentirei così onnipotente, nessuno di noi lo è. Si osserva la realtà. La realtà è fatta di spostamenti, la storia umana è fatta di grandi spostamenti di popoli. Allora, un recente convegno di Confindustria ci ha parlato della realtà effettiva, con i dati anche lì, del lavoro degli immigrati nel nostro paese. Ha parlato di un contributo alla crescita, alla ricchezza nazionale, di quasi 8 punti di PIL, 100 miliardi l'anno. Questo non è un contributo sostitutivo a quegli italiani che se ne vanno in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Nord Europa. Perché qui parliamo di lavoratori molto poco istruiti che vanno a fare i lavori, no, quelli che vengono definiti lavori sporchi, lavori pesanti, lavori pericolosi. Cioè quei lavori che il nostro mercato del lavoro ora mette a disposizione. Per questo, tornando al discorso di prima, non è che noi regolarizziamo forzatamente. Noi regolarizziamo perché abbiamo bisogno, tra l'altro, di regolarizzare questi lavoratori per pagare le nostre pensioni, se vogliamo dirla in questi termini. L'altra domanda sul sindaco che spende e deve spendere i famosi 35 euro al giorno del progetto SPRAR lì, anziché spenderlo per i propri concittadini. Il sindaco in realtà intanto sta spendendo dei soldi che gli vengono dati per quella finalità. E che gli vengono dati soldi per quella sostituibili, per così dire, dal bilancio comunale. E tra l'altro in quest'ottica sta facendo un investimento per la sua comunità. Allora, io devo fermare perché il tempo è finito, ci vorrebbero ore e ore di dibattito, perché le obiezioni in realtà battono di molto chi è favorevole. Comunque, andate a leggere, andate sul sito Radicali, vedrete queste 200 pagine, molto interessante. Continuiamo a dibatterne con rispetto, se consentite, e appuntamento domani alle 8:20 con me, Alessandro Mina, attenti a noi due.